una canzone così semplice, con un ritmo lento e facile. 4-5 accordi in croce, 3 strumenti e una voce. La vita è già così difficile, se non credi nelle favole. Se la strada è sempre ripida, canta una canzone stupida. Aioe, altre 15 lettere, 7 note ad una consonante muta, ogni rima è benvenuta. Away, come, quando, cosa, chi se ne frega del perché, se restiamo io e te, sì, se restiamo io e te. Sette corde alla chitarra, 8 cordicelle al mandolino, 2 bacchette per la batteria, e la voce la mia. Strofa, strofa, ritornello, un po' di questa, ancora un po' di quello. Rima baciata, rima fortunata, un po' strega, un po' fata. Aioe, aioe, altre 15 lettere, 7 note ad una consonante muta, ogni rima è benvenuta. Aioe, come, quando, cosa, chi se ne frega del perché, se restiamo io e te, sì, se restiamo io e te. Una canzone così semplice non vuol dire che sia stupida. Forse sì o forse no, o forse non lo so, forse, forse, solo un po'. Forse, forse, solo un po'. Finale veramente stupido. Se restiamo io e te, sì, se restiamo io e te, sì, se restiamo io e te. Sì,